Onda Riflex è una 3 giorni dedicata allo strumento radio, che è nata l'anno scorso, si è tenuta l'edizione scorsa al Next Emerson a Firenze, ed è nata da un gruppo di radio che ci siamo coordinati anche un po' già da prima della pandemia, ma soprattutto durante le dirette che abbiamo fatto insieme durante il periodo del Covid, ed è appunto questo gruppo di radio libere, autogestite, che condividono un po' alcune pratiche e che condividono anche strumenti tecnici. Alcune di queste radio trasmettono in AM, altre in FM, altre soltanto via web, come ad esempio Radio Spore, che è quella bolognese che ospita questo evento quest'anno e che però appunto in passato abbiamo trasmesso anche via AM, via onde medie. Da questa affinità fra queste radio è nato una specie di rete e abbiamo deciso di fare una sorta di, per chi conosce gli Hack Meeting, una sorta di Hack Meeting delle radio, cioè ovvero 3 giorni in cui condividere sapere tecnico e sapere non solo tecnico, coordinarsi, stare insieme, progettare idee comuni. Tra l'altro era stato proprio durante un Hack Meeting, se non sbaglio, in Val di Susa, che era stata diffusa anche la conoscenza per creare radio in AM, giusto? Esatto, un po'. Originariamente era nato lì, perché alcune delle persone di queste radio hanno aperto Hack e quindi era nato lì questa condivisione di sapere tecnici e quest'idea di fare rete, di aiutarci, di non stare ogni volta a inventare l'acqua calda da soli nel proprio collettivo, nella propria città. Ecco, il mercato editoriale italiano è spesso contraddistinto anche da competizione, diciamo così, anche proprio sulle conoscenze, mentre le radio che si riuniscono a onde riflesse invece fanno della condivisione dei saperi un punto di forza. Essendo tutte radio piccole, nessuna di noi è come altre radio, qui non faremo il nome, di diffusione nazionale di origine religiosa, quindi siamo tutte radio piccole, autogestite, ce lo rivendichiamo, crediamo anche nel piccolo non per necessità ma anche per scelta, perché ci si conosce, perché si possono fare le cose basate sul rapporto diretto con le persone, anche con il pubblico, con Radio Spore ad esempio, anche se adesso non trasmettiamo in AM, tantomeno in FM, voi sicuramente in Radio Fujiko sapete quanto è duro il mondo dell'FM, di quanto sia difficile poter entrare lì, mantenere una frequenza, i costi che ha questo per una radio piccola, e quindi la dimensione piccola ce la rivendichiamo, e quindi ecco, si è provato a fare in diversi modi, cioè oggi è molto normale poter ascoltare, anzi forse non so se me lo azzarderei a dire, però uno dei modi in cui si ascolta più radio, oltre che in macchina durante gli ingorghi, è anche via web, anche per le radio che trasmettono in FM, e quindi noi abbiamo detto vabbè, non è inutile stare ogni volta da soli a inventarsi il sistema per poter trasmettere online, trasmettere in AM o anche a crocchi per trasmettere per la trasmissione FM. Condividiamo queste cose sia perché è qualcosa che appunto che ci piace fare, ma anche perché è l'unico modo per i piccoli di sopravvivere contro i pesci grossi, no? Saranno 3 giorni di presentazioni, workshop, diversi appuntamenti anche su, come dire, i nuovi tra virgolette sviluppi della tecnologia. Ad esempio parlerete anche di DAB. Esatto, perché oltre all'FM, all'AM adesso e alla trasmissione online, adesso c'è anche il meraviglioso mondo del DAB, in questo caso pure condivisione legale, no? E di burocrazia, se vogliamo, di come poter fare per eventualmente, se si vuole, comunque mettere anche in discussione, perché prima di salire tutti su un treno è bene anche sapere dove va sto treno, che cosa ne comporta, e quindi senza dire di no a priori, comunque vedere che cosa è, che cosa non è, come si può fare, come non si può fare, che ad esempio è una cosa che alcune radio autogestite come Radio Onda Rossa hanno iniziato anche a trasmettere in DAB assieme a collettivi, a realtà di posti più piccoli fuori da Roma, quindi anche un'occasione per radio grosse di una, cioè piccole ma grosse di una città grossa come Roma, di aprirsi a realtà più piccole. Noi crediamo che questo possa essere un momento, ecco, di condivisione, ecco, questo è certo. Importante. Sto ancora spulciando tra il programma, ad esempio ci sarà un incontro dedicato all'ascolto delle radio in carcere. Noi pensiamo sì, è facile ascoltare la radio, basta anche solo banalmente avere un telefonino, ti colleghi online, ascolti la tua radio preferita, la diretta oppure i podcast o quello che è, però per chi è privato della propria sia libertà, questa cosa non è possibile, mentre invece la radio in carcere viene consentito l'ascolto e quindi è uno strumento prezioso. Poi ci saranno anche altri talk, altri laboratori, dalla Radio for Dummies, proprio che cosa è la radio, com'è che si trasmette sulle onde, che cosa sono le onde, alcuni workshop un po' più tecnici su alcuni accrocchi per la M e non solo. Poi ci saranno due presentazioni di libri sulla radio e poi ci sarà anche un collegamento con delle radio iberiche dalla Spagna, dalla Catalogna e Paesi Baschi, che ci racconteranno come funzionano le radio libere autogestite lì, come si coordinano là, condividono il palinsesto e così. C'è una dimensione molto interessante e poi faremo una plenaria fra persone di varie radio, fra cui Radio Blackout di Torino, Radio Onda Rossa di Roma, Radio Neanderthal, Radio Wombat di Firenze, ovviamente Radio Spore, che siamo a casa a Bologna, nonché tutte le persone che non fanno radio, ma qui alle persone a cui interessa comunque come argomento e magari vorrebbero pure fare radio loro.